Nella scienza nuova, parlando della logica e della sua genealogia, Giambattista Vico ipotizza una notte dei tempi in cui gli uomini avrebbero fatto un gran parlare fantastico, animando sostanze varie, tanto animandole a volte, come nel caso del cielo, della terra e del mare, tanto animandole da renderle addirittura divine, con un gioco di prestigio tutto mentale. In altre parole, l'uomo avrebbe conferito sensi e passioni, no? Come diceva Vico, a checché sia. E da ciò le favole, da ciò la mitologia. Se Vico pensava davvero che quest'andazzo appartenesse ad un ciclo bello e concluso della vita su questo pianeta, si sbagliava di grosso. L'epoca della logica poetica, per usare un eufemismo, o dell'antropomorfismo in misure industriali, sembra invece non finire proprio mai. Giorni fa, esseri umani a quanto sembra, scienziati, esseri umani particolarmente qualificati in quanto scienziati, hanno deciso di mettere al mondo degli oncotopi. Gli oncotopi sono un ibrido, un po' topi e un po' cancri, di quelli che fanno male agli esseri umani, un male da morirne. Brevettati, ribattezzati gli oncotopi di Harvard, ce ne sono già pronti un centinaio. L'argomento usato era più o meno era questo. I benefici che l'oncotopo porterà sono di gran lunga superiori agli svantaggi costituiti dalla sofferenza che l'oncotopo proverà. Come tipo di argomento da un'idea abbastanza fedele dello stato di proterva demenza a cui è giunto l'essere umano. Avesse un po' di spocchia in meno, avrebbe già capito che è difficile parlare per se stessi, dire qualcosa ed essere sicuri che quanto detto è effettivamente fatto proprio, pensato, cogitato, soppesato, condiviso fino in fondo fra le molteplici e contraddittorie facce del sé e sé. Ma siccome un po' di spocchia in meno non ce l'abbiamo, continuiamo ad attribuirci non solo unità di mente e di intenti, ma anche la capacità di estenderci su che sia ci giunga a tiro. E così l'uomo riesce addirittura a parlare sempre lui per conto ed invece di qualcun altro, sia esso un topo, un cancro o l'insieme dei due. Shaking and a city about to fall, yeah, 6 o'clock. Jump and rock. Skinny little girl from down the block. The one that looked like 6 o'clock. There's a tear rolling down over every note she plays. Cause her mama's street walking, a daddy gone away, yeah, 6 o'clock. Jump and rock. Skinny little girl from down the block. She give a little more.